Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Come ogni mercoledì alle 10.30 all'incirca parte Città Fujiko Live Club, trasmissione che si propone di farvi ascoltare un paio di ore di musica registrata dal vivo di ogni epoca e di quasi ogni genere. Trasmissione che potete riascoltare anche, potete ascoltare anche tramite il web, e non ancora il podcast, c'è stato un grande problema con la piattaforma che ci ospita e quindi per il podcast dovete aspettare ancora un po'. Comunque la trasmissione andrà avanti lo stesso. E va avanti come sempre, iniziando con una novità che quest'oggi riguarda un gruppo che non è molto conosciuto dalle nostre parti, ma che è da tantissimi anni sulle scene, dal 1985 per la precisione, con uno zoccolo duro di fans e anche un buon successo soprattutto in madre patria, che è la Gran Bretagna. La band si chiama Wedding Present, vengono da Leeds, sono almeno il leader, l'unico che è rimasto della formazione originale e che è l'unico membro costante, il leader, si chiama David George, chitarrista e cantante. Lui viene da Leeds e la band è attiva da 1985, come vi dicevo, però dal 1997 al 2004 c'è stato uno stop perché il buon David Judge ha fondato un'altra band, un cosiddetto spin-off, una band che si chiamava Cinerama, ma poi è rientrato col nome originale. Comunque era sempre lui che faceva tutti e due i casi. Naturalmente, fra virgolette, come quasi sempre, sono stati scoperti e promossi da John Peel, che è sempre nei nostri cuori, e ha fatto parte di una scena, una cosa un po' particolare, il New Musical Express, che era un giornale musicale, è tuttora un giornale musicale, ma adesso è solamente online, allora era era in cartaceo. Nel 1986 allegò a uno dei suoi numeri una cassetta chiamata C86, appunto cassetta 86, con alcuni dei nomi allora sconosciuti più promettenti del momento. Fra gli altri c'erano i Primal Scream, Mighty Little One Drops, i Soap Dragons e anche i Wedding Present. Altra cosa particolare è che nel 2022 i Wedding Present hanno pubblicato un singolo al mese per 12 mesi durante tutto l'anno e tutti sono entrati nelle charts britanniche. E con questo hanno eguagliato un record che apparteneva a Elvis Presley, ma di record a noi non è che interessi tanto. I Wedding Present hanno nel corso degli anni pubblicato una serie di cassette che si chiamava Live, a seguire l'anno di registrazione, e poi nel corso sempre degli anni, degli ultimi anni, hanno ripubblicato queste cassette che ormai erano andate assolutamente fuori catalogo in CD, e hanno iniziato dal 1987 con qualche buco, sono arrivate anche il 2017, ma quello che interessa a noi, l'ultima uscita in ordine cronologico di questa serie, è il disco, la CD per meglio dire, che vi presento quest'oggi. Si chiama Live 1994, per il mio pessimo inglese è 1994. L'album è stato registrato a Strasburgo in Francia, in un locale che si chiama La Laterie, che penso sia La Latteria più o meno, il 16 dicembre del 1994. Ci andiamo, dopo tutte queste chiacchiere, ad ascoltare un brano che parla di Catwoman, l'amica di Batman, chiamiamola così. Loro sono Wedding Present, l'album, lo ripeto, si chiama Live 1994. Si conclude così con Wedding Present, che hanno oramai lasciato il palco quel 16 dicembre del 1994, penultimo concerto di quell'anno, immortalato in questa novità che vi propongo quest'oggi, Live 1994. Come detto in precedenza, questo CD è uscito a suo tempo anche in cassetta, oramai introvabile, e fa parte di quella serie che si chiama Live, con a seguire l'anno di registrazione. Il brano invece che ci siamo ascoltati si chiama Catwoman. Alfieri dell'indie britannico, questi Wedding Present in tutti i sensi, dopo qualche anno passato con la RCA, hanno deciso di proseguire in proprio, pubblicando i dischi con la propria casa discografica e facendo tutto praticamente da soli. Il tutto capitanato appunto da David Gedge, chitarrista e cantante, nonché leader e unico membro costante di questi Wedding Present, che sono, come avrete capito, i titolari della novità di quest'oggi. E prendendo spunto dalla registrazione effettuata a Strasburgo in Francia, passeremo la prima parte della trasmissione girovagando un po' per tutta la Francia e a dire il vero, iniziando questo giro con una novità, anche questa, quindi oggi doppia dose di novità. E che novità, conosco i Cure e amo i Cure dall'inizio della loro carriera, penso che anche molti di voi lo abbiano fatto, soprattutto quelli che più o meno hanno la mia età. Non starò quindi a parlare di Robert Smith, non starò a parlare della loro brillantissima carriera, dirò solamente che il 1 novembre esce il nuovo album, ma quello che interessa a noi in questo caso, l'album fra parentesi si chiama Songs of a Lost World, quello che interessa a noi in questo caso è un 12 pollici in vinile che è uscito all'inizio di ottobre e che è stato pubblicato in tiratura limitata di 5.000 copie, la mia è la numero 400, giusto per la cronaca, e tutto è stato fatto cercando di preservare l'ambiente, plastica, vinile riciclato, elettricità usata solamente in maniera corretta, diciamo così. Sono due i brani che compongono questo 12 pollici e che spero ci ascolteremo entrambi nel corso della prima parte della trasmissione. Sicuramente adesso ce ne ascoltiamo uno che si chiama And Nothing Is Forever, che è stato registrato alla Sud de France Arena di Montpellier in Francia, appunto, l'8 di novembre del 2022. E infatti l'album, che il 12 pollici, scusate, in realtà si chiama Novembre, detto, scritto proprio così, non so come si pronuncia la francese, Live in France 2022. Il brano, lo ripeto, si chiama And Nothing Is Forever. Loro sono Cure. Thank you. silence of a heartbeat. Esattamente un anno fa, esattamente il 31 ottobre del scorso anno, ha assistito allo splendido concerto bolognese dei Cure. Avrà sicuramente apprezzato anche il gruppo in apertura. Si chiamano Twilight Sad. e sono quelli che ci siamo ascoltati adesso in una registrazione effettuata a Bordeaux in Francia il 14 novembre dello scorso anno. Si chiama VTR il pezzo, e questo gruppo che è scozzese ha il vezzo, diciamo così, o almeno aveva purtroppo, ha fatto due album live e una serie infinita di brani che si potevano scaricare gratuitamente dal loro sito, fino a formare soprattutto i brani live, a formare un paio di album addirittura. Veramente una operazione molto molto meritevole. E il stamattina non ce la posso fare. E il brano che ci siamo ascoltati, lo ripeto, è stato registrato a Bordeaux il 14 novembre dello scorso anno e si chiama VTR. Dopo i Twilight Sad siamo rimasti a Bordeaux, sempre in Francia naturalmente, in compagnia di Theodore Joseph Ted Horowitz, meglio conosciuto come Papa Chubby. Lui viene dal Bronx ma è famosissimo in Francia, forse, anzi quasi sicuramente, più che in madrepatria. Infatti ha fatto diversi album live, parecchi dei quali sono stati registrati proprio nella città Oltralpe, come si dovrebbe da dire. Questo è un doppio album che si chiama Big, Bad and Beautiful. Papa Chubby è, direi che è tutto fuorché beautiful, ma è un personaggio incredibile, è enorme, assolutamente enorme, ma è un bravissimo, bravissimo chitarrista. Fra l'altro questo doppio dischetto, che è veramente molto molto lungo, ai limiti della possibilità del CD, infatti un CD dura 78, praticamente 79 minuti, e l'altro ne dura 78, quindi un totale di 2 ore e 37 minuti, che coi tempi che corrono e con i prezzi che ci sono dei CD è sempre un bel andare. Ah, il brano, non dimenticavo, si chiama $69. Ma dicevo di un viaggio attraverso la Francia, e quindi ci spostiamo, andiamo al sud, andiamo a Lione, con un personaggio che anche lì viene da New York City, stavolta però da Brooklyn, ed è attivo addirittura dal 1966. Ultimamente ha dichiarato, anzi ultimamente qualche anno fa, oramai nel 2019, ha dichiarato che non avrebbe più suonato dal vivo in modo continuativo, ma sporadicamente qua e là per soprattutto gli Stati Uniti. Lui è sempre stato un grande esponente del movimento contro il razzismo negli Stati Uniti. Lui è sangue misto, addirittura credo triplo o quadruplo sangue misto, un po' di tutto, e ha sempre avuto dei problemi di razzismo sin da quando era bambino. Era troppo nero per i bianchi, troppo bianco per i neri, eccetera eccetera eccetera, discorsi che abbiamo già sentito purtroppo. Il suo album live, sto parlando di un vinile, si chiama Rock and Adult, ed è stato parzialmente registrato a Lione in Francia il 22 marzo del 1981. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è uno dei suoi super classici, si chiama Wild in the Streets, lui è Garland Jeffries. We'll be right back. Non hanno certamente bisogno di presentazioni gli Who, anche perché con questo pezzo che si chiama Who Are You, giocano appunto sul loro nome. E niente da dire sugli Who, naturalmente sono conosciutissimi, hanno fatto un sacco di album dal vivo, ma anche un album in studio che si chiama Endless Wire, album del 2006, è uscito in due versioni, una normale e la versione deluxe, che è quella che ci siamo ascoltati, perché nel secondo sono due CD e nel secondo c'è una registrazione effettuata al teatro antico, non lo dico in francese perché non lo so, al teatro antico di Vienne, che è un sobborgo di Lione, il 17 luglio del 2006, e appunto è un brano che ci siamo ascoltati, famosissimo Who Are You by The Who. E faccio giusto in tempo a farvi ascoltare la novità dei Cure che vi ho proposto in apertura. Lo ripeto, è un 12 pollici con due brani, è uscito in tiratura limitata, e il brano che ci andiamo ad ascoltare adesso si chiama I Can Never Say Goodbye, è stato registrato allo Zenith di Toulouse, Francia, naturalmente, che è stato il fulcro di questa prima parte della trasmissione, e il pezzo, lo ripeto, si chiama I Can Never Say Goodbye. Loro sono Cure. Thank you. 30 ottobre 2024, ormai è finito anche questo mese, e seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte che è iniziata come sempre con la novità che vi propongo quest'oggi, Wedding Present Live 1994, registrato appunto nel 1994 e facente parte di questa serie che la band di Leeds ha pubblicato nel corso degli anni, prima in cassetta e poi in CD. A dire il vero, in cassetta ci sono ormai tutti gli anni, mentre in CD ce ne sono solo alcuni, man mano che arriveranno magari ve li farò ascoltare. Il tutto è stato registrato alla Laterie di Strasbourg in France il 16 dicembre del 1994. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Crawl. E devo chiedere scusa perché, l'avrete capito, è talmente nuovo il 12 pollici dei Cure che vi ho fatto ascoltare, ma subito mi sono accorto che c'era un problema. Le etichette delle due facciate, sto parlando di vinile, sono invertite. E prima, preso dall'euforia di riuscire a farvi ascoltare anche il secondo pezzo, non ho ricordato questo piccolo particolare e vi ho rimesso sullo stesso pezzo. Quindi mi chiedo scusa, vedrò se verso la fine della trasmissione ci sarà tempo per farvi ascoltare veramente I Can Never Say Goodbye, mentre vi siete beccati due volte e Nothing Is Forever, ma sempre più grandissimi. E come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Record Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna nel trascorrere degli anni, e ancora una volta ve lo dirò, sempre. Ci sono tantissime cose registrate in questo giorno, per cui dovendo fare una scelta, una cernita, il criterio è quello di un brano per ogni decade. E andiamo a iniziare subito con gli anni 70, esattamente 1973. Di scena una band che in realtà è attiva da molto molto molto tempo prima, addirittura dal 1964, e che però cambiò nome diverse volte fino a che non assunse la denominazione completa di Lynyrd Skynyrd. Paladini del suono sudista, sono attivi come dicevo da tantissimo tempo, anche se hanno avuto dei break, delle interruzioni purtroppo anche tragiche, visto che nell'ottobre, anzi praticamente è stato l'anniversario, il 20 di ottobre del 1977, il loro aereo a corto di carburante cadde e morirono alcuni dei membri della band, fra cui il leader carismatico Ronnie Van Zant, cantante. E poi sono tornati nel 1987, sono tuttora attivi senza nessun membro originale, sono ormai praticamente deceduti tutti, ma continuano a suonare, anche se tutte le volte dicono che sarà l'ultimo tour. Il brano che ci andiamo ad ascoltare arriva da una raccolta che si chiama Collectibles, con la Y al posto della I, giusto per collegarsi alle Lynyrd Skynyrd, che di Y ne ha molte. L'album è stato edito nel 2000, quindi nel novembre del 2000, quindi postumo dopo l'incidente, che è quello che fa da discriminante fra la prima carriera e la seconda. Diciamo che la seconda è più un remember dei Lynyrd Skynyrd della prima epoca. Comunque questo Collectibles contiene registrazioni in studio e live partendo dal 1968. Qui abbiamo una registrazione effettuata per una radio di Memphis, Tennessee, che si chiama WMC-FM, il tutto registrato il 30 ottobre del 1973. Il brano lo riconoscerete immediatamente, anche se è un brano molto molto primordiale, chiamiamolo così, non sono ancora quelli potenti del 75-76, quelli che veramente, come dicono i giovani, ma neanche più tanto, spaccarono. Loro sono Lynyrd Skynyrd, 1973, 30 ottobre, Sweet Home Alabama. Give me home to see my kids. shows has got the swampers. And we've been known to pick a song or two. Pochi fortunati spettatori negli studi della WMCFM Radio di Memphis, Tennessee. Pochi fortunati che hanno assistito a questo showcase dei Nenesca Nerd. E questa era Sweet Home Alabama, registrato il 30 ottobre del 1973. Dalla lontana Memphis veniamo a zone più vicine a noi, esattamente a Spilamberto, provincia di Modena. Una delle band che mi sono piaciute un sacco e tuttora mi piacciono, anche se risultano come suono un tantinello datati, ma dal 1979 al 1997 hanno veramente fatto faville. Poi sono ritornati nel 2008, sempre come al solito un solo personaggio della band originale, Wilco Zanni, che è il chitarrista cantante e che prosegue l'attività appunto dei Reds. Vivo, l'album live della band, è stato registrato in diverse occasioni alla fine degli anni 80. Questo in particolare è particolare appunto perché è stato registrato al Block Shock di Berlino Ovest in Germania il 30 ottobre del 1989. Vi dice niente questa data? È semplicemente una decina di giorni prima della caduta del muro, quindi è stata una cosa veramente epocale sia per i Reds, credo, suonare a Berlino, che per il mondo. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Tudor, lo sono Reds, era il 30 ottobre del 1989. Brano d'apertura di questo album che si chiama Vivo, l'unico album live dei Rats, quanto mi risulta, ma sono pronto ad essere smentito. Il brano è stato registrato, come vi dicevo, a Berlino Ovest qualche giorno prima della caduta del muro, esattamente il 30 ottobre del 1989, e si chiama Tudor. Torniamo in terra americana con un grande personaggio, si chiama John Hiatt, viene da Indianapolis, è attivo anche lui da tantissimi anni, dal 1972, e in tutti questi anni ha fatto solamente 3 album live. Fra parentesi, lui è un mattacchione, un pazzoide, il suo primo album si chiamava Comes Alive at Budokan ed era registrato in tutti gli Stati Uniti e non al Budokan, infatti è un gioco di parole, come questo album che si chiama Live at the Hyatt, che fa il gioco con il suo nome sull'omonima catena di hotels, ma non è registrato all'Hyatt Hotel, bensì al Forum di Londra, quindi da tutta un'altra parte, il 30 ottobre del 1993, scusate. Ho scelto per voi questo dolcissimo brano, secondo me molto bello, che si chiama Feels Like Rain, lui invece si chiama John Hiatt, dal 1993. Down here the river that meets the sea, in the sticky heat I feel you open up to me. But love comes out of nowhere, babe, just like a hurricane. Feels like rain. I'm lying underneath the stars, right next to you. I'm wondering who you are, babe. How do you do? How do you do, baby? When all of a sudden clouds roll in across the moon, a wind howls out your name, and it feels like rain. I say it feels like rain. Feel it, baby. Said it feels like rain. I feel like rain. Ooh, baby. So batten down the hatches, or leave your heart out on your sleeve. Just because we're in for stormy weather doesn't mean we ought to leave. Just lie here in my arms, let it wash away the pain. Sometimes I have a Voce riconoscibilissima, una delle mie band preferite in assoluto, si chiama Black Crowes, e voce riconoscibilissima, dicevo, quella di Chris Robinson, che insieme al fratello Rich, il chitarrista, ha fondato questa band in Atlanta nel 1984. Sono ancora attivi, fra litigi, riunioni, scioglimenti, cacciate di musicisti, però sono sempre loro due il fulcro della situazione. Li abbiamo visti anche in concerto in Italia diverse volte, anche recentemente a Milano, e sono sempre grandissimi. Questo album si chiama semplicemente Live ed è stato registrato all'Orpheum Theater di Boston, in Massachusetts, il 30 ottobre del 2001. Il pezzo in particolare che ci siamo ascoltati si chiama High Head Blues. Per l'ultima cosa di Record Today di oggi, che è una registrazione del 2016, torniamo in Francia, però stavolta ci fermiamo a Parigi e con una band svedese, almeno ufficialmente e nominalmente. L'album si chiama Lady in Gold, che era il titolo dell'album appena uscito in quel periodo, Live in Paris. La band è quella dei Blues Pills, un quartetto che ufficialmente viene da Örebro in Svezia, ma in realtà ha una storia più complessa. Elin Larsson, che è la cantante, durante un giro in California, un anno di studio, non ricordo bene, conobbe due fratelli Anderson e insieme a loro fondò la band. Poi cominciarono a girare in tour, arrivarono in Francia, dove incontrarono un chitarrista molto bravo che si chiama Dorian Soreau. Credo, non mi sbilancio col francese, lui era francese, è francese, spero per lui, appunto, e lo reclutarono subito per la band. Al giorno d'oggi, dopo decine di cambiamenti di musicisti, compreso anche quello del francese, sono rimasti solamente Elin Larsson al canto e Zach Anderson, uno dei due fratelli che suona la chitarra e il basso. Sono i due membri permanenti della band, poi ci sono altri musicisti che ruotano intorno a loro due. Hanno fatto due album dal vivo e anche un extended play registrato dal vivo a Rock Palace in Germania. Questo invece che interessa a noi è stato registrato al Trianon di Parigi il 30 ottobre del 2016, che è la registrazione che comprende questo, che fa da base per questo doppio CD che, lo ripeto, si chiama Letting Gold Live in Paris. Il brano che ho scelto per voi si chiama Little Boy Preacher, loro sono Blues Pills. You feel it in your bones. You see it. Ultima registrazione per quel che riguarda il Record Today di oggi, 30 ottobre 2016, Le Trianon di Parigi. Loro sono Blues Pills, questo gruppo ufficialmente, diciamo così, svedese. Il brano si chiama Little Boy Preacher ed è, fa parte del doppio live che si chiama Lady in Gold Live in Paris. Purtroppo non rimane tempo per recuperare l'ascolto dei Cure che ho cannato in precedenza e sarà per un'altra volta. Andiamo a concludere questa Città Fujiko Live Club del 30 ottobre 2024 con la novità che vi ho presentato quest'oggi, Wade and Present. Arrivano da Leeds, David Jedge è il leader e unico membro costante dall'inizio ad oggi. E hanno fatto questa serie di album che si chiama semplicemente Live e a seguire l'anno di registrazione, l'ultimo in ordine di tempo, non sono in ordine cronologico, saltabeccano da un anno all'altro, l'ultimo in ordine di tempo è questo che vi ho già fatto ascoltare oggi, Live 1994, che è stato registrato alla Latterie di Strasburgo in Francia il 16 di dicembre del 1994. Prima però vi devo ricordare appunto che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo dai 103.1 MHz di modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, nonché potete ascoltarci tranquillamente sul web con l'apposita app che potete scaricare dal sito della radio, radiocittafujiko.it. Per quel che riguarda i podcast, come dicevo in precedenza, ci sono un po' di problemi, vediamo che... speriamo che le risolvano in fretta per poter poi mettere su le ultime due o tre trasmissioni che ancora non ci sono state. Vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio come dicevo in compagnia dei Wedding Present, il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Flying Saucer. Ciao a tutti da Nevio.